ma nemmeno sinistra. Questo è il Sud. Chain Rap presenta Salviamo Lizzano. Salviamo Lizzano. Salviamo Lizzano. Del soppattume mi ci pulisco il culo. Voglio vedere Lizzano un eco futuro. Alza le mani, batti le mani, fuori i camion insani. Sono campani, sono milioni, qualcuno faccia le sue dimissioni. Siamo tutti furiosi per quello che succede. Qualcuno guadagna su di noi in malafede. Mentre la merda prende la merda, la città gioca a tira la corda. La discarica si chiama Vergine, ma rimorchia. Del soppattume mi ci pulisco il culo. Voglio vedere Lizzano un eco futuro. Alza le mani, batti le mani, fuori i camion insani. Sono campani, sono milioni, qualcuno faccia le sue dimissioni. Così, ma da dove arrivano questi camion? Da destra, dal centro, anche da sinistra. Ma quello stai chiedendo informazioni. Andiamo. Non si può uscire nemmeno fuori di casa.